scintilla perché tutto prende fuoco. Basta una scintilla perché tutto prende fuoco. Basta una scintilla perché tutto prende fuoco. Presenza e costanza, gioco strano fuoco. Basta una scintilla perché tutto prende fuoco. Se non ora quando, questo non è un gioco. Basta una scintilla perché tutto prende fuoco. Ci prendiamo tutto, senza alcun perdono. Basta una scintilla perché tutto prenda fuoco. Il ricatto del lavoro che fa solo perde tempo, divide e separa senza alcuna pietà, soggetti all'alienazione, al fascino dell'ambizione. Ma è solo un'illusione. Basta una scintilla perché tutto prende fuoco. Presenza e costanza non contano poco. Basta una scintilla perché tutto prende fuoco. Se non ora quando, questo non è un gioco. Basta una scintilla perché tutto prende fuoco. Ci riprendiamo tutto, senza alcun perdono. Basta una scintilla perché tutto prende fuoco. Se non ora quando. Porco Dio che bucio di culo, raga. Vabbè, l'escursione prima di suonare mai più. Ovviamente, l'idea del cazzo. Questo è il pezzo con i featuring, ma che noi famo sempre senza featuring, perché sono tutti inaffidabili. Oh, pure voi. Voi sentite solo Ramiro, pure voi. C'è solo Ramiro, raga. No, no, no, veloce. Vai. Il tuo stato mentale, la tua rabbia che sale, di nuovo la terra, titolarsi sotto i tuoi piedi. Hai deciso di restare, ancora fermo ad aspettare, ma hai capito che comunque non saranno niente ad agire. Sei chiusi in una gabbia impossibile da aprire, nascondito di aprire all'estito della mostruosità. Tu una società che avanza inesorabile, marcia al progresso, regresso, verso la tomba, verso la tomba dell'umanità. Guarda quello che accade, cerca di urlare, usa la testa, ora prova a reagire. Distruggi ignoranza, distruggi le mura di questa misera testa. Non si fa niente, non si fa niente, porco Dio. La ragione agli sotti, di stare sei meritevoli, di vedere il mondo con gli occhi di chi lo vuole cambiare. Di chi lo vuole cambiare? Rendo, grazie dei cori, grazie Red. Belli, criticati di professione, venite a mirate, la morte ma pezzo le lastre stelle, ora è il nostro, ora è il nostro. Ah, raga, adesso ci aiuta Gabriele, perché viene da un paese che è quasi colonia della Tuscia, solo che c'hanno le fabbriche al posto del tufo. Oh, quindi in pratica è una merda. Civita fa schifo, raga, perché non vi rivendicate quella felpa. Noi non ci siamo mossi da Colleferro comunque oggi, la coerenza. Ti salutano un po' tutti, chi ti sta sul cazzo e chi ti vuole bene, lo sceriffo, maresciallo, che crede tu sia pazzo. Paese, paese, cambierai paese, paese, io non ti cambierai. Paese, paese, non lo potrai capire. Paese, paese, io non ti cambierai mai. Maroni, Capari, scazzottate dentro i bar. I vecchi sulle panchine, da una vita sfermile a. Il pallone, il giardinetto, alle 8 tutti a casa. Se no erano ammazzate! Paese, paese, non lo potrai capire. Paese, paese, io non ti cambierai. Paese, paese, non lo potrai capire. Paese, paese, io non ti cambierai mai. Bella raga, arrivederci Gabriele. Se riposiamo. Allora, grazie a Valerio, regà, che ci ha infilato qui come i Blink al concerto degli Immortal. Ringraziamo lo Strike. Allora, mo c'è una canzone, quella difficile da attaccare. Coordiniamo, se regà. Qui peggio che mai. Ah no, sì. Caccia, mamma mia. Il gruppo Edito si è sciolto. O loro o noi. Allora, il prossimo pezzo è una cover, come di consueto, dei Tear Me Down, che comunque se Massimo ci volesse aiutare a cantarla ci farebbe piacere. Però ha capito sta. Che famo, partiamo. Vai. La forza di lottare, libero di vivere senza autorità, chiaro di non pensare come fai. Tu accordi, diritti sul tuo viso, non è tutto finito, è quello che sono. Vivi pure nostalgico, è figlio del passato, ma dopo questi anni io non sono cambiato. Ma rapito di fratelli, ci spacchiamo le ossa, perciò è cui prendiamo camicie a quadri e teste colorate, a figli, fratelli e teste rasate. A solo, a solo, a solo, a solo. Boia, il prossimo pezzo si chiama Boia, detto anche Digos. Che banaloni, dicono sempre le stesse cose. Puoi essere ancora minaccia! profitto, cultura è successo. Finale, diritto c'è, darmi decesso. Arriva ultimo pezzo, poi vi lasciamo al resto della serata, ce dobbiamo sbrigare, che domani è martedì. Mamma mia, pesante questa. Eravamo scordati una canzone scaletta, porco Dio. Ma dai, potevo farla? Dai, al volo, va, cioccolato. Che testo di cazzo. Questa può essere che non la sbaglio. Caro amico, io ti scrivo perché ci sei sempre stato. Quando pianto, quando rispondo, che tu essere malato. Lo ricordo forse il giorno in cui ci siamo conosciuti. Questa mia stessa ritorno, non saremo più cresciuti. Caro amico, io ti scrivo perché non può finire così. E se fossi solo musica non sarei nemmeno qui. Supportarti a fare atrás fino alla fine. Senti a fine le braccia dei ribelli e non dei servi. Dei ribelli e non dei servi. C'è solo il back attack. C'è solo il back attack. C'è solo il back attack. C'è solo il back attack. Ci sei sempre stato, quando pianto, quando rito del mio essere malato. Non ricordo forse il giorno in cui ci saranno fuori. Questo di assenza ritorno non saremo più cresciuti. Rassentato questo amore, non soggetto al cambiamento. Rassentato questo odio, ora che sto la tua parte. Esce da quel giro di schi, anche da quella cantina. Ti fa correre dei rischi, ah, quindi da continua. Ah, ah. C'è solo il punk hardcore. C'è solo il punk hardcore. C'è solo il punk hardcore. C'è solo, solo il punk hardcore. Ciao ciao. Che stronzi, porca mala. Ciao ragazzi, buon proseguimento.